America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Ladies and gentlemen, let me introduce to you the next president of the United States, Donald Trump. Il prossimo presidente degli Stati Uniti, the next president of the United States, qui è Chris Christie che parla, il governatore del New Jersey, ha appena presentato Donald Trump dopo la vittoria del Super Martedì, ma la certezza che esprime Christie non riguarda soltanto il campo repubblicano, che in realtà resta più incerto rispetto a quello democratico, ma riguarda anche e soprattutto Hillary Clinton, grande vincitrice anche lei con Trump di questa grande serata, di questo super martedì che ha visto da una parte 11, dall'altra 12 stati schierati per scegliere il candidato per la Casa Bianca del 2016. Sentiamo Hillary. You know, all across our country today, Democrats voted to break down barriers so we can all rise together. Ecco, Hillary Clinton è emersa davvero come il grande vincitore di questa serata perché il suo concorrente diretto Bernie Sanders non può più di fatto insidiarla. Sarebbe davvero una grande sorpresa. Certo, potrebbe esserci un'incriminazione da parte dell'FBI per lo scandalo delle email top secret che venivano gestite da un server privato della signora Clinton, però oggi la notizia è quella della sua vittoria a tutto campo. Hillary ha vinto in 7 stati: Georgia, Virginia, Alabama, Tennessee, Texas, stato molto importante, Arkansas e Massachusetts. In questa sua dichiarazione Hillary dice: l'America non ha mai smesso di essere grande e adesso dobbiamo unirla. Devo dire, aveva un sorriso raggiante Hillary Clinton, come se si fosse tolta un peso dalle spalle. Era sorridente, il viso era disteso, non era teso come l'abbiamo vista dopo vittorie molto più strette, e aveva il tono, come avete sentito, molto caricato. Non lasciate che vi dicano che non possiamo più fare delle cose in America, perché possiamo, potremo e continueremo a farle. Trump, con il suo movimento, perché lui stesso definisce questa mobilitazione popolare a suo favore un movimento, dice, questo non fa parte dei giochi o delle dinamiche politiche tradizionali, qui c'è un movimento di persone che si vuole ribellare davanti allo status quo. Beh, ha vinto in Georgia, Virginia, Vermont, Alabama, Massachusetts, Tennessee, Arkansas, ha fatto le sue dichiarazioni dalla Florida, dal suo grande, meraviglioso, lussuosissimo resort, fin troppo lussuoso in fondo per un populista come lui, dopo essere stato introdotto da Chris Christie, governatore del New Jersey, che lo ha presentato appunto, come avete sentito, al pubblico come il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Sentiamo Donald Trump. It's so great to be at Mar-a-Lago with friends and the press and the media and everybody. I know it was a very tough night for Marco Rubio. He had a tough night, but he worked hard. He spent a lot of money. He is a lightweight, as I've said many times before. Beh, intanto parte con un attacco subito, violento, diretto contro Rubio. Dice: mi dispiace per Rubio, per lui è stata una serata molto dura e ha anche speso un sacco di soldi. Ma come ho detto più volte, è un peso piuma. È stato l'unico attacco veramente diretto nel contesto della campagna repubblicana da parte di Donald Trump, perché intanto Rubio lo aveva attaccato piuttosto duramente nei giorni scorsi, e poi perché in effetti Rubio, poveretto, devo dire, non ha fatto bene. È arrivato terzo nella gran parte dei casi e soprattutto ha vinto soltanto il Minnesota. Trump si è congratulato con Ted Cruz, devo dire, è stato un gesto magnanimo da parte sua, che in genere è sempre molto caustico nei confronti degli avversari. Invece ha voluto, come dire, essere carino, gentile nei confronti di Cruz, che ha vinto il Texas. Cruz ha vinto anche l'Oklahoma, però la sua vittoria più importante è stata a casa, il Texas, che tra l'altro ha 155 delegati da solo, dunque una vittoria per lui molto importante, per la quale Trump, come vi dicevo, gli ha fatto le congratulazioni. Ecco, Cruz invece, beh, non ha fatto nessuna congratulazione a Trump, anzi è partito con un attacco diretto sia contro di lui che contro Rubio. Sentiamolo. Tomorrow morning we have a choice. So long as the field remains divided, Donald Trump's path to the nomination remains more likely. And that would be a disaster for Republicans, for conservatives and for the nation. Ecco, Cruz, Rubio ha fatto malissimo. Che si ritiri, che lo faccia per il bene del partito. In questo modo potrò confrontarmi direttamente con Trump e potrò dimostrare che la sua retorica è una retorica confusa, di sinistra, non conservatrice, favorevole a una modifica dell'Obamacare, ma non alla sua sostituzione. Insomma, non ha Trump un'agenda repubblicana e sarò io a salvare il partito repubblicano. Ecco, Cruz, devo dire, nel suo discorso si è scagliato con inaspettata veemenza invece contro Trump, che tutto sommato lo aveva trattato in modo benevolo. Lo ha definito un traditore dei valori della destra, di quei valori religiosi e conservatori che appartengono al partito repubblicano. Ecco, io credo che ci sia qui molta strategia, cioè Cruz va all'attacco perché vede uno spiraglio per poter cercare di portare un affondo da qui ai prossimi appuntamenti elettorali in altri stati contro Trump e risalire la clina. Invece Trump si considera già, come dire, un vincitore, quasi un regnante, quindi dice sì sì, bravo bravo Cruz, hai fatto bene, ma tanto non mi acchiapperai mai. Ecco, questo appello sia di Cruz che di Trump è perché Rubio lasci la corsa elettorale non è stato accolto naturalmente da Rubio, il quale dice: noi continueremo a combattere fino alla fine, anche se dovessimo passare per tutti e 50 gli stati. Sentiamo Bernie Sanders. That our government belongs to all of us, not just super PACs and wealthy campaign contributors. Ecco, devo dire, Hillary ha la strada spianata per la nomination perché ormai ha 984 delegati contro i 347 di Bernie Sanders, è un numero rispettabilissimo naturalmente, ma non decisivo se pensiamo che Hillary ha già poco meno della metà dei 2383 delegati necessari. Sanders continua a battere sulla sua piattaforma di sinistra, di protesta, soprattutto appassionatamente sottoscritta dai giovani. I miliardari non comprano voti, noi vogliamo mettere fine a un sistema di finanziamento corrotto. Questa campagna non riguarda soltanto l'elezione di un presidente, ma anche come poter migliorare l'America. Ecco, belle parole che però serviranno a poco in questo momento. Perciò, come dicevo, siamo ancora in attesa di una decisione dell'FBI sull'email contestate di Hillary. Beh, non ci resta qui ad America 24 che designare un candidato forte e sicuro per i democratici in Hillary Clinton. Very big night for Hillary Clinton. She's already won. We've projected six. Bene, questa nottata è stata seguita intensamente, beh, come potete immaginare, a dirette televisive un po' dappertutto. E dunque, a questo punto, archiviato negli scaffali della storia, il super martedì, anche un esperto di campagne elettorali come David Plouffe, l'artefice della vittoria di Obama nel 2012, ha un pronostico sicuro. A novembre avremo Hillary contro Donald e, a giudicare dalle dichiarazioni notturne, devo dire, ci credono anche loro, questi due candidati che hanno dominato ieri notte l'appuntamento elettorale più significativo in questa corsa verso la Casa Bianca del 2016. Soprattutto ci credono le loro basi politiche, i loro managers che ai quartieri generali ormai da qualche giorno hanno un solo pensiero: quali strategie adottare contro l'avversario nella corsa nazionale? Quali scheletri nell'armadio si possono scoprire o ripescare per far partire una campagna negativa contro l'uno, contro l'altro? Trump sembra impermeabile a qualunque attacco, sarà possibile trovare qualcosa che lo incastri imbarazzandolo davvero? E lo stesso vale per Hillary, e si cerca di pescare nel passato. Qualcuno dice che Trump rinvangherà il suicidio di Vincent Foster, che fu uno dei consiglieri della Casa Bianca, uno dei consiglieri di Obama, suicidato appunto all'avvio della prima amministrazione nel 93. La corsa resta lunga, nelle prossime trasmissioni di America 24 seguiremo gli andamenti dei prossimi appuntamenti in primarie e caucus, ma cercheremo anche di darvi una prospettiva per lo scontro finale che ci porterà a novembre e a un nuovo presidente di questa straordinaria, vivacissima democrazia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo archiviato il super martedì e dunque non posso che proporvi dei Lynyrd Skynyrd, Tuesday's Gone. Martedì è passato. We'll be right back.